one, two. El León, Poli, va. Abbiamo lo sai che tritura come schiacciano ci rime più feroci dei cinghiali più voraci. Mi spiace se ti brucia il culo come HD Froci, ma perde la serata è finita quando ci incroci. 2-0 codici, Badano scende giù col 12. Ti diamo morto se peglione a prezzi modici. Un colpo morto, soddisfatto e rimborsati. Non siamo sopravvissuti, ma da quando siamo nati. Non è colpa nostra, se stiamo fatico così. Carico un colpo sul beat, sì, è una giostra. Tipo roulette russa, il battito del cuore, la morte che bussa. Il premio in palio la tua fossa. Già senti il calore, sin dalla prima stagione, seconda, terza stagione, fino alla quarta. Il tuo culo che si squarta, specie quando è notte tarda. La nostra click in produzione ti bombarda. Sei pronto per sparare, preparati a un funerale. Una morte non troppo naturale. Non ci vuole tanto, basta solo caricare. E anche se mi ero storto, qua non c'è storia. Un colpo morto. Sei pronto per sparare, preparati a un funerale. Una morte non troppo naturale. Non ci vuole tanto, basta solo caricare. Un colpo, un morto, uomo se ci parli contro. Cinghiallo sulla base in fase down, era doppio fondo. Al pensiero delle facce di chi odia. È colpa della vita, sarà colpa dello iodio. Nervoso più che mai, scalerata l'impossibile. Amante della pace, ma non è sempre possibile. La differenza è tanta tra un amico ed un facsimile. Un applico sul beat, neutralizzo le tre critiche. Livide serate, occhi gonfi, nervi tesi. Alcol oltre il limite, ormai da mesi e mesi. Offesi, mi spese, ma non posso farci nada. De nada, de nada, de nada, de nada. Impazzisco, non ti piace ciò che faccio, va bene. Io lo faccio per star bene. Censura le tue lamentele, i commenti fuori capo qui non hanno storia. Lulo se ne sbatte e produce la sua roba. Sei pronto per sparare, preparati a un funerale. Una morte non troppo naturale. Non ci vuole tanto, basta solo caricare. E anche se mi ero storto, qua non c'è storia. Un colpo morto. Sei pronto per sparare, preparati a un funerale. Una morte non troppo naturale. Non ci vuole tanto, basta solo caricare. E anche se mi ero storto, qua non c'è storia. Un colpo morto. Sei pronto per sparare, preparati un funerale. Una morte non troppo naturale. Non ci vuole tanto, basta solo caricare. E anche se mi ero storto, qua non c'è